I diritti televisivi, allora, che cosa realmente succede in vista di questa assemblea di venerdì? Si litiga sul presente, sul passato, mi sembra di capire forse anche sul futuro già. Beh, l'attualità riguarda questi benedetti 200 milioni relativi ai bacini di utenza, ne abbiamo parlato moltissimo. Ci sono tante ipotesi di mediazione, appunto, che occorrerebbe un mediatore per mediare sulle ipotesi di mediazione. Sì. Mi si scusi questo gioco di sì. parole, ma in realtà la situazione è veramente così ingarbugliata. Una soluzione potrebbe essere quella di escludere l'Auditel come criterio delle indagini demoscopiche. In pratica, nelle richieste che sono state fatte dalle società con un fatturato minore, c'è quella di inserire l'Auditel, cosa che ritengono le grandi invece inaccettabile, perché se c'è si è fatto l'esempio di un Milan Chievo con 3 milioni di spettatori, non si può presumere che ci siano 1,5 milioni di tifosi del Milan e 1,5 milioni di tifosi del Chievo. Effettivamente. Quindi sgombrato il campo da questi dati Auditel e quindi fatta una seria indagine demoscopica, si potrebbe arrivare a creare una sorta di tabella in cui in qualche modo i grandi rinunciano a qualcosa a favore delle piccole. Quest'anno il problema è per gli anni successivi, anche perché la legge Melandri fissa dei criteri, delle percentuali per i primi 2 anni e sulla base di quelli si è cercato di trovare un accordo con le difficoltà che vediamo. Per gli anni successivi invece dovranno essere le squadre della Lega a mettersi d'accordo su come ripartire i diritti TV, fermo restando un 40% minimo che deve essere distribuito in parti uguali. Ora capirai che se si sta litigando insomma sul 25% per i bacini di utenza, capirò, si continuerà a litigare. Capirò. E soprattutto le 5 big non vogliono restare ostaggio delle 15 medio piccole, quindi stanno ponendo anche una questione di governance della Lega. Non si può essere democratici fino in fondo assegnando un voto uguale per ciascuna squadra senza considerare per esempio il fatto che le 5 big realizzano il 70-80% del fatturato del sistema calcio.